cazzo di te, la verità, cioè. Blow, blow. Come le? Yeah. Bene, è lunedì sera e come tutte le lunedì sera, a parte lo scorso che era fine, era il lunedì di fine del mondo. Era la fine del mondo. Che era il lunedì di Pasqua e non siamo andati in onda, magari boh, la gente non se ne è neanche accorta. Perché siamo cani. questo è Ragnar Paisa in onda tutti i lunedì sera. Egoli. Su Control Radio, cioè quello che state ascoltando, sulle forse frequenze di, non mi ricordo. Tutte nostro le settimane solita, sulle frequenze di, non mi ricordo. Non me le ricordo. Il nostro numero di telefono è 055 73 99 33. Fate esplodere questo telefono. La nostra mail è info.ragnampaisa@gmail.com e ragnampaisa.blogspot.com daje.com il blog di riferimento che fa capo a noi e a tutti i nostri mix, trasmissioni, podcast e quant'altro. Tra l'altro, da quant'è che non esce un mixino su questo mixino. Ragnar Paisa? Mi sa che è un bel po', che è un bel po'. È un bel po'. Vai, io qualche cosa da passare e ce l'ho. Anch'io ce n'avevo uno che mi aveva mandato un personaggio incognito. Allora sì, vabbè, ve lo lascio per dopo la sorpresa. No, lo devo, va ancora fatto il concept. No, se c'è roba mettiamola, che sennò sempre, dai, un po' boring, se podcast. Ed è un po' che vanno trasmissioni e basta. Basta, sì. Ogni comunque, sono sempre lì le trasmissioni, sì, sì. Ogni settimana c'è il post. Anche i mix sono lì, se li cercate, li potete cercare. Se il link non funziona, ci potete scrivere, potete commentare direttamente sotto il post, e noi ve li rimettiamo su, siamo a vostra disposizione. Insomma, scrivete, commentate, che feedback fanno sempre piacere, fanno anche sempre. Le infamate fa esatto, parte, esatto. Non ci offendiamo. Le infamate sono le meglio. A parte Duccio. Perché sono, no, io non mi offendo mai. A parte il beef. Le infamate fanno comodo, invece sono quelle che ti fanno ridere, ti fanno passare bene la giornata. Sono quelle che ti fanno fa soldi. Yo. Esatto. Bene, Tommy è di là e già sta partendo con il suo set e noi ci risentiamo fra poco. Blow! A dopo. già arrivi. Best of all, repatriate and make we take it all. No land for you and I, man. Work hard and make we do it in a that shame of yourself. Well, I've been thinking lately much of my baby, thinking how she needs me, yeah. And I don't seem to know if she's feeling so bad, feeling so bad, feeling so bad. Special request and a vital demand to all the fat girls in the whole wide world, y'all. Today, say, tippity boom, boom, boom, boom, boom, boom, fatty boom, boom, song, song, song, song, song, song, song, fatty boom, boom, boom, boom, boom, fatty boom. Long face see your dress up in a costume. Long face see your beard in a depart. But I like to smell your sweet perfume, perfume. Bang, bang, bang, bang, bang, fatty boom. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, fatty boom. But I sexy on them, she sexy on them, she boom. Better looking on them, she better than doom. Dong, dong, dong, dong, dong, dong, dong, fatty boom. Hey, bang, bang, bang, bang, bang, she this and boom. Come here to start. Me, bubble you, the bubble me. Yes, I put the in a me ring. Hi, my name is Yellowman, and in the ghetto they call me Mr. Sexy. In special request to all the girls in Jamaica and all over the world. You know, I Yellowman come to make feel irate. Do it, ya. You could have lived in a Kingston or country. Do it, ya. Them over me, them mama over me, over me, them mama over me. St. Thomas Cullen gone crazy over me. Kingston girls, them a love me. Them over me, them a mad over me. Hey, over me, them a mad over me. I want thing with them when they get hungry. One thing with them when they get hungry. This is what they say to me. I like my at love. With what? Chris Jamaican ketchup. I like my hot hamburger with what? Grace Jamaican ketchup. Say what you saying, girl. Do what you're doing now. Oh yeah. Say what you're saying and do what you're doing. 'Cause I've got something, baby, money can buy. Because I whoa, yes, I love this little girl of mine. Ooh, yes. Ooh, yes. 'Cause when I have got no money, she is still my honey. And there is no reason to be funny, 'cause I jam down with it. I jam down with it. We just a play again. I jam down with it. I miss you, sweetie, sweetie, sweetie. Nobody beat a go hold you. Why you hang? I miss you, sweetie, sweetie, sweetie. Nobody control you. Nobody beat a go hold you. I'm a sweetie, sweetie, sweetie. Rubber don't control you. I'm a sweetie, sweetie, sweetie. Rubber don't beat up on you. To you, this one dedicated to you. All of you, do it. Stay with me, make we bond the kochi, hey. Stay with me, make we bond the kochi. Say me and me bridging down the alley. Me and me bridging down the alley. Say, all a we, a lick up the kochi. There come the police, one arrest me. And when him see, say, that a sense he. He say, Lord God, if you want join we, just stay with me, make we bond the kochi. Stay with me, make we bond the kochi. Say when me did ban, me mother disown me. When me did ban, me mother disowned me. Me mother said, Lord, what a ugly baby. I tell you, I was brought up by me granny. I tell you, I was brought up by me granny. Say, as me reach 8, me gonna primary. Say, as me reach 10, I gone secondary. As I reach 16, I gonna UC. I know I turn to be a MC. The girls, them a rush me. So what? Stay with me, make we bun the kochi. Hey, stay with me, make we bun the kochi. Tell me what you plant the ganja with. Every time me bun it, it a tear off my forehead. He nearly kill fatted, dung a limb skid. I tell you, beg you, stay with me, make we bun the kochi. Stay with me, make we bun the kochi. Hey, woo, Ray. Che fai? C'ho il microfono. L'avevano lasciato. C'ho il microfono sbilenco. Aveva lasciato il microfono paperino. Era un po' basso. Insomma, non dico ci. 055 73 99 33, il numero di telefono che ci piace ricordarvi tutte le volte. Eh sì, eh? Ha visto mai qualcuno ci chiamasse una volta? Oh. Maledetti. Comunque, diciamo un po' di serate che ci sono questa settimana. Che succede? Che succede? Succede, innanzitutto si potrebbe dire quella più vicina, ovvero giovedì 19 aprile, che c'è il quarto episodio dell'Hi-Fi Bar TV. Ah, quello in streaming. In streaming video. E in ciccia, davvero. In ciccia, davvero. Ma ci sei te a questo giro? Esatto. Esatto. Quindi, Hi-Fi Bar TV. Quindi, se accendete il computer per vedere chi c'è a suonare, ma la frangia copre la faccia di chi c'è a suonare, c'è cioè Duce. Sono io. È Duce. Esatto. Se no, insomma. Se venite è meglio che sentite on stream. Meglio di ciccia. Meglio di ciccia. Ora sinceramente non so a che ora inizia e questo me ne duole. Vabbè, a che ora comincerà mai, voglio dire. Comincia presto. Voi venite, magari venite alle 7, vi fate l'aperitivo lì almeno. Tanto sarà giù di lì a quell'ora. Inverso quell'ora. Inverso quell'ora, prima o poi inizierò a suonare io. Poi c'è da dire del 21 aprile che è il Record Store Day. Eh sì, come tutti gli anni. E come tutti gli anni chi è che fa qualcosa? I Dragoni a Pisa, ci puoi scommettere proprio le Dragoni scarpe. I Dragoni a Pisa, ragazzi, come tutti gli anni, un 20% di sconto su dischi e libri. Andate a piacervi su Facebook, andate a svuotargli il negozio, andate a piacervi su Facebook la pagina di San Antonio 42, che è il negozio preferito di Pisa dei dischi, preferito dagli italiani, dopo gli italiani che vivono a Pisa, dopo la Scavolini. Via San Paolo 1, per l'appunto il 21 aprile il buon Dragoni ospita Luca Gricinella, ovvero Bla Luca, che è fresco fresco di scrittura di un libro che si chiama Rapropos, il rap racconta la Francia. Rap? Rapropos, rapropos. Come la propoli. Ah, rapropos. Okay. No, pensavo che si fosse incartata rapropos. La rapropos, io dico rapropos perché il francese non lo so e non lo voglio nemmeno sapere perché sfondo una porta aperta, ne so meno di te, guarda. E quindi non so come si pronuncia, io vi dico rapropos. Comunque Luca Gricinella, Bla Luca, seguite il suo blog. Il blog Bla Luca. Bla Luca. Luca. Il 21 aprile, sera, se siete a Firenze, Bampai ospita, squillino le trombe. Chi c'è? Maro Marco al cargo. Macros. Quindi in San Niccolò, diciamo subito sopra San Niccolò, Maro Marco al cargo. Lo potremmo ricordare anche la prossima settimana, comunque diciamola anche. Si anticipa. Si anticipa anche questa, che il 24 aprile Just Station ospita Channel One al Sonar. di Colle Valdelsa, quindi in, in provincia di Siena. Prendete la Firenze Palio, uscite a Colle Valdelsa e giù di lì vi è il sonar. Comunque la settimana prossima vediamo di ricordarci, di ricordarvelo. Sì. Ma buono? Sì. Direi che insomma vi se ne è detto già un bel po'. Un bel po', eh? Vi abbiamo riempito la settimana. Vi abbiamo riempito la settimana. Lasciamo andare Biga, eh? Lascialo andare, lascialo andare. Ci sentiamo fra un po'. Vai, vai, vai. Thank you. Against a nigga with a whole lot of soul, partner. The show shot can rock your soul when I flow, partner. The dime dot, I'm a rider, knocking the globe out of line. And when I'm rhyming, soul shining like I'm gold mining. So don't bother competing, it's so bothering. Engole sapo. Ah, mas que nada, tu tá apanhando o topo, hein? Eu venho solo do fundo do subsolo pro mundo. Cachibumbo vem junto, a cada segundo. Essas palavras que eu junto te apresentam um assunto. Eu te pergunto, o que você faria se tivesse 1 milhão? De carro importado, esquece o busão, condomínio fechado, aquela mansão. Não ter mais horário, não bate cartão, não ser empregado, agora patrão. Sem dever pra ninguém, nem carnê, nem cartão. Sem comprar coisa usada, só primeira mão. O preço que for, foda-se a inflação. Pagando à vista, nunca mais prestação. Um computador de última geração, microfone na mão e muita inspiração. No estúdio equipado pra fazer gravação. A vida é difícil, você se acostuma. Mas eu dando conselho é tipo um médico que fuma. O que eu não acostumo e não adianta coisa alguma. Eu quero a vida boa na banheira de espuma. A vida é difícil, você se acostuma. Mas eu dando conselho é tipo um médico. O que eu não acostumo e não adianta coisa alguma. Eu quero a vida boa na banheira de espuma. A vida, alright, let's get started. You may learn something. Well, well, well. Thank you. Situazione. La situazione. C'è un ospite in studio. Vai con la torta, eh? C'è un ospite che ha portato una sorpresina. Occhio Eleonora, perché questa cosa, cioè, ti può costare anche di venire tutti i lunedì. No, che ora ci sta tutte le volte che passi, cioè noi ci si aspetta, capito? Che tu porti che alle, la torta. Che alle 21:44 c'è e un quarto alle 10 c'è la torta. Bene, ne approfitto per salutare il Dragoni che ci ha messaggiato. Ciao Lillo. Ringraziandoci della pubblicità. Dragoni, prima o poi si passa dal negozio e si saccheggia. E ci si sistema. E si fa pari. Le serate della settimana in corso le abbiamo dette prima. Diciamo un po'. Si è detto anche quelle della prossima. Hai detto anche quelle della prossima. Si ridice quelle passate. Possiamo dire giusto un paio di uscite veloci veloci, ovvero che oggi è uscito il disco su Hyperdub di Dean Blunt e Inga Hopland, Black is Beautiful, che erano conosciuti come Hype Williams. Poi il 5 gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, il 30/05. Il 30 maggio esce il nuovo singolo di Il Blu, che si chiama Clapper, su Hyperdub. E nel flip side c'è un remix di Traxman, quindi è una roba footwork, juke footwork. E mentre il 28, sempre di maggio, esce per Planet Mu il singolo di Protect You, si chiama Motorbike, ed è un progetto di Mike Petillo e Aaron Leitko. Nel frattempo mi è arrivato un messaggino. Torta. Matteo Helini che dice torta. Mi piacerebbe un pezzettino. Purtroppo stai a Pisa e oltre a avere quella disgrazia di stare a Pisa, non ti tocca neanche la torta di lunedì sera. Succede anche questo. Invece volevo dire velocemente che se vi siete persi, come ce lo siamo persi noi, al Coachella, un grande... Ah, quella storia lì che si guardava prima? Un grande evento, sì, che potete guardare come noi abbiamo fatto su YouTube. Il Coachella è un festival che viene fatto in California e c'ha sempre una grande line-up. Quest'anno c'erano, fra i vari artisti, Dr. Dre e Snoop, e assieme a tutti gli ospiti come Warren G, Dog Pound, eccetera. Quest'anno di fantasmi. C'è stato anche, hanno fatto risuscitare per l'occasione sotto forma di ologramma il buon vecchio Tupac. Storie proprio, esatto, così, storie che proprio ci rimane folli, male. Futuriste, di funk polveroso, funk polveroso. Quindi basta che andate su Red Burger, www.redburger.it, e vi leggete l'articolo e vi guardate anche i video. Potete guardare solo il pezzettino di Tupac oppure anche tutta la performance di Snoop. Comunque vengono caricati gli interi concerti del Coachella, quindi ve li potete vedere tutti su YouTube. Oh, basta con questo telefono. Allora. Il Pizzo mi scrive il seguente messaggio: il Coachella un Neat Tirrenia. Pizzo, sì. ti posso dire una cosa? Vai. Bene, Bubu è pronto di là nell'acquario con il suo set e noi ci sentiamo fra poco. Feel vibe. feel the vibe. Feel the vibe. Feel the vibe. Feel the vibe. Yeah. for motherfuckers that talk that sellout shit. Watch my hand. Get down, but for now I rhythm and funk makes you hump like Technotronic. I'll make the jam pump. Go to the finish when I freak the fly gimmick like without eating my damn spinach. Cause when I'm on the road, that's when Red Man starts. Round off backflip cartwheel. I know when my afro grow, that mean more rhymes to flow. But I continue on the menu and send you on a jam that earthquakes the whole damn venue. It's like this, it's like that, I won't slack. I pack more steel than a cop pack blackjack. Word is bomb, the choir song broke your arm when I sound off from here all the way to Hong Kong. Drop pound for pound to throw down the strut. Yo, E, what's that funk mode? Let the rough cut cut your ear. Hit squash the crew, I'm 22 and vex the beer. Float like Muhammad, roll on like Secret. Me rip the crowd in half on a sneak tip. Two they crumble, too humble for you to stumble. I sting like a bumblebee while the others bum bumble. Doom, dong, dong, the doom, dong, ding. Extremely wild like the hair on Don King. Cause I kick the mold to make your brain explode. It's the funk, now I'm known around the globe. So buckle up, hush up, while I freak the funk to get down with the sound. Grab my Bozak, then I freeze now. Bag. I'm a man, motherfucker, you're a half a fag. My chest is hairy like the Cubans rocking silk in the 80s on Miami Beach. You're just a rabbit that be captured by the falcon's feet. I hunt for the meat, see me weak and thump in the street. Fuck around, leave you slumped in your seat. Cause we coming from Queens, every platter is a gat rated. Caramelized duck, bulls are getting castrated. Hold up, someone pass the weed to me. Fuck a routine, I'm switching up the scenery. Boats with decks, strictly using throats for sex. Yoga stretch, open pussy like a sofa bed. Key lime, spear fishing off the Yucatan. Grab a barracuda, higher than a parachuter. Parachuters, Anthony and Harper. Cacho Cavalli, dog, I'm sharper than an archer. I'm an artisan, down for bipartisan. Cause everybody getting paid, see me with the freshest fade. Charles Oakley, Gecko, belts and Durangles. I fuck good and make big C's like a mango. NFL already. Sculpted for the clay court, simple spaghetti, shivin' in a gray sport. Suck my dick, bitch, real good. Motherfucker kid, Action Bronzolino, suck my balls. No disrespect, ma, I'm trying to eat the pussy. Lift your legs over your head so I can taste the tushy. King Plus is what they call me at the hook. I have 260 pounds of pressure right in the hooker's mouth. 5'7 with the ass of a horse. Put it in from behind, or it's the salad I toss. She ride me like a maniac. Best believe the bitch a brainiac. She known to keep a fresh shaven cat. Milk chocolate in her eyes like the sun. Keep her loaded 22 inside a thighs in a bunch. Her pussy lips are tight just like the box of a nun. She'll have a fiend itchy and scratchy for rocking the slums. Boosting in a bustier, I give my favorite goose away just to get a closer glance at how them juices spray. Shit, man, fucking tired. Can't go no more, man, I'm done. My rhymes are marinated days ahead. Hot jalapeno cream cheese on the raisin bread. That's for breakfast. I got a death wish. You never catch a Bronzolino in a necklace. I'm on the block like Tetris. Caddy green North Star engine. Pecan pie seats, Lord, I'm a legend. Queen shit, man. Duro, e questa purtroppo è una domanda. Poi c'è le tue preferenze. Guarda, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica. Dutch. No, mi sarei incastrata la cuffia nei capelli. Ce l'ha messa? Che you know. Ce l'ha messa? Sentite, o ce l'hai messa? Sentivi il prete sotto. Abbiamo sbagliato. È arrivato the priest. DJ priest. DJ apri priest è quello. DJ apri priest. Ora poi domani va a risentire la registrazione e mi infama perché dice quando non c'ero mai infamato. The son of a preacher man. Oh, suona anche il campanello. Ma chi c'è a quest'ora? Non so. Vabbè. Speriamo non sia Equitalia. Come? Speriamo non sia Equitalia, dico. Ah, ho capito, c'è l'Alitalia. Ho detto, ma ci vengono a cercare qui? Meglio. Che vogliono? Bene. Basta così. Io mi rifo un pezzo di torta. No, io... Fo schifo. Vabbè. È il terzo. Rappresenti. Represent. Vabbè, va. Beccatevi Duccino fino alla fine, fino alle 22:30. Ci si risentiamo lunedì prossimo, come ogni volta, you know, come Vasco. A tutte le massaie che si sono strappate i capelli perché lunedì scorso non abbiamo trasmesso, raccattateli. Raccattateli, riattaccateveli coi bostic perché Conte insegna. Ora si va dritto, non si manca più. No, sì. Ciao, ciao. Vai, vai, vai, vai, vai. Per le bambine, you cast all your dreams aside. Vultures upon the heart. Cast the dreams. A future bells of family hand down. Oh, mother, I just can't breathe. My dream loves a family hand down. Oh, mother, I just can't breathe. Who can live up to that? I finally found it. Your heart among vultures. Well, let me have it. And promise me you won't let me down. Oh, promise me. Just promise. Future levels of family and down. We'll be right back. is the weeping and the mourning and the natural thief. It is the weeping and the mourning and the natural thief. It is the when we come to the microphone within the champion song. Okay, Lamborghini Mercy. Yo chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk. Okay, Lamborghini Mercy. Yo chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk. Okay, Lamborghini Mercy. Swear. Yo chick, she so thirsty. Swear. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk. Okay, Lamborghini Mercy. Yo chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk me. Okay. Drop it to the flow, make that ass shake. Whoa, make the ground move, that's an ass quake. Build a house up on that ass, that's an ass state. Roll my weed on it, that's an ass trait. Say yay, don't we do this every day, day. I worked them long nights to get a payday. Finally got paid, now I need shade and a vacay. And niggas still hating, so much hate, I need a AK. Now we I'm Perry, yeah, I'm Perry A-ing. White girls politicking, that's that Sarah Palin. Getting hot, California Caden. I give her that D, cause that's why I was born and raised in. Okay, Lamborghini Mercy. Swerve. Yo chick, she so thirsty. Swerve. I'm in that 2C Lambo Swerve. With your girl, she tryna jerk. Okay, Lamborghini Mercy. Swerve. Yo chick, she so thirsty. Swerve. I'm in that 2C Lambo Swerve. With your girl, she tryna jerk me. Oh.